L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e bentornati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta. Questa settimana è stata festeggiata la Giornata Mondiale dell'Acqua, che ricorre ogni anno il 22 di marzo, e quindi in questa puntata parleremo di acqua. Un rubinetto lasciato aperto o una conduttura che perde sono le immagini che associamo praticamente in automatico allo spreco di acqua. In realtà ciascuno di noi utilizza acqua per bere, cucinare, lavare, ma ne utilizza ancora di più attraverso il cibo che mangia. Quindi sprecare cibo o produrlo in modo non efficiente equivale a fare uno spreco nello spreco. Allora, di tutto questo parleremo oggi con Marta Antonelli, che è dottoressa presso il King's College di Londra, che insieme alla collega Francesca Greco, anche lei al King's College, ha curato un volume che è stato appena pubblicato dal titolo L'acqua che mangiamo, edito da Edizioni Ambiente. Allora sentiamo come ci ha presentato questo lavoro Marta Antonelli e poi qualche altro approfondimento sul tema cibo e acqua. È un libro che affronta la tematica della scarsità idrica da un punto di vista spesso trascurato, cioè quello dell'acqua nel cibo. Facciamo questo attraverso i concetti di acqua virtuale e impronta idrica, perché ci permettono di capire che l'uso di acqua per la produzione di cibo rappresenta nel mondo e in Italia circa il 95% dell'impronta idrica totale di un paese, mentre i consumi domestici, che sono quelli su cui solitamente si concentra l'attenzione anche dal punto di vista mediatico, nonché dal punto di vista della ricerca, rappresentano il restante 5% del consumo totale di un paese. Lei ha parlato, ci ha anticipato dei temi dell'impronta idrica e anche del consumo di acqua virtuale. Ora, sull'impronta idrica forse già siamo un pochino più preparati. L'acqua virtuale, che poi è anche un vostro preciso campo di studio, visto che siete a Londra, lavorate con Tony Allan e così via, che cos'è? Cosa si intende? Per acqua virtuale si intende l'acqua che è stata necessaria a produrre un bene, agricolo o non, durante tutte le fasi della filiera di produzione. Il libro si concentra sull'acqua virtuale contenuta nel cibo, perché il cibo è in assoluto la tipologia di prodotto più dispendioso dal punto di vista delle risorse idriche, e la teorizzazione del concetto si deve al professor Tony Allan del King's College London, che analizzò per la prima volta negli anni 90 la scarsità idrica della regione più arida al mondo, cioè quella del Medio Oriente e Nord Africa, dal punto di vista appunto dell'acqua virtuale, quindi evidenziando come il commercio di cibo, che altro non è che commercio del fattore di produzione acqua, permetta a questa regione così scarsa di raggiungere la sua sicurezza idrica e alimentare. E a questo proposito, credo che nella lettura di questo libro sia ben chiaro, poi alla fine risulti ben evidente, come nel momento in cui noi facciamo degli acquisti forse avremo bisogno di sapere anche tutto questo per capire anche che tipo di impatto abbiamo nel momento in cui facciamo una scelta piuttosto che un'altra scelta. Assolutamente, assolutamente. Un tema che ricorre all'interno del volume è quello del bisogno della trasparenza. Trasparenza come diciamo primo passo verso la creazione di una nuova cultura dell'acqua e una nuova che passa per una nuova cultura del cibo, perché viviamo in un'epoca in cui i sistemi alimentari sono molto complessi, le filiere sono molto lunghe, per e cui l'abbiamo c'è... ben visto con questa vicenda del cavallo. Esatto, e per cui c'è un processo che è definito nel volume di desocializzazione, cioè il concetto di acqua virtuale ci permette di capire come noi cittadini e consumatori siamo assolutamente inconsapevoli dell'impatto che hanno le nostre scelte alimentari e quindi di consumo sulle risorse idriche. Quello che è quindi auspicabile da questo punto di vista è la creazione di un accounting idrico, cioè di una contabilità dell'acqua all'interno della filiera di produzione, e naturalmente in questo senso il ruolo delle aziende è cruciale, perché il settore privato, che gestisce tutta la filiera agroalimentare, è a metà tra consumatori e agricoltori, per cui è l'attore fondamentale che potrebbe permettere che le informazioni appunto relative alla contabilità, a ciò che avviene all'interno della filiera agroalimentare, arrivino ai consumatori, così che noi possiamo scegliere. Se immagino mai che questo vada in porto, immagino anche che ci saranno delle etichette appunto più grandi, a volte penso addirittura così grandi che non saremo in grado di leggere, no? Perché avremo bisogno di informazioni sull'acqua, sulla provenienza, sull'allevamento, su chi ha fatto cosa, complicatissimo. Assolutamente, assolutamente. Proprio nel libro questo tema dell'etichetta viene affrontato in un capitolo scritto da me e dalla dottoressa Greco, e proponiamo un prototipo di etichetta naturalmente perfettibile, e speriamo appunto che questo capitolo, che questo nostro lavoro sia un primo passo per magari suscitare l'interesse appunto di comunicatori, di designer e di aziende appunto che si offrano di metterlo in pratica, di implementarlo. Marta Antonelli ci ha già anticipato quindi che per un consumo idrico più razionale ed intelligente è necessaria non solo la nostra attenzione, ma anche quella delle aziende che producono il cibo che noi consumiamo. Non a caso quindi il volume, che ricordo si intitola L'acqua che mangiamo, ospita anche l'analisi di un esperto del Barilla Center for Food and Nutrition, che è un centro internazionale di ricerca, di pensiero, di proposte sul mondo della nutrizione e della alimentazione, che è nato su spinta della nota azienda italiana, ma che ormai appunto è andato ben oltre i confini della Barilla. Luca Ruini è uno degli esperti di riferimento di questo centro. Con il Barilla Center for Food and Nutrition abbiamo raccontato che effettivamente c'è una corrispondenza tra la cosiddetta piramide nutrizionale, cioè le raccomandazioni che i nutrizionisti fanno per mangiare maggiore frutta, verdura, cereali e meno formaggi e carne, confrontando questo con quelli che risulta essere l'impatto ambientale, in particolare legato all'acqua, al consumo delle risorse acqua da questi stessi alimenti. Quello che viene fuori è interessante, perché ciò che raccomandano i nutrizionisti, di mangiare più frutta, verdura e cereali, porta dietro di sé un minor consumo anche della risorsa idrica. E quindi c'è una corrispondenza tra ciò che è buono per te e che è buono per l'ambiente, che non è scontata da questo punto di vista, anche per il tema dell'acqua. Certo. Ma parliamo di numeri rilevanti, cioè si parla di 400-500 litri per chilogrammo di frutta o verdura, contro i, ad esempio, 15.000 che si può arrivare con la carne rossa, e in mezzo ci sono tutti gli altri prodotti. Quindi è impressionante, insomma, sì. Il divario tra l'una e l'altra cosa. Esattamente. Quando si parla di acqua, però, non si parla soltanto ovviamente dell'acqua che è contenuta nel prodotto, ma anche di tutta l'acqua che è necessaria per produrre quel determinata materia prima che può finire dentro l'alimento. Per me è stupefacente sempre pensare come sono state quantificate queste cose, no? Perché comunque è un procedimento che ovviamente va fatto se vogliamo tenere conto, certo. Però poi immaginare quando uno poi dopo andato lì ha detto: allora, quanta acqua hai usato per impastare questa farina che ha ottenuto, questo spaghetto? Questo è tutto misurato, perché dovendo produrre, uno deve definire quant'è, come si fa a casa, no? Quando uno cerca di produrre, deve fare una torta, dice: aggiungo tanta farina, tante uova, e poi aggiunge una tot quantità di acqua. La stessa cosa nel caso della produzione della pasta, che in questo caso è molto semplice, perché è soltanto di semola di grano duro e acqua aggiunta, eventualmente uova nel momento in cui si fa la pasta all'uovo. Sicuramente più complicato è vedere quanta acqua serve per allevare un vitello, ecco, questa è una cosa ancora più... Esattamente, anche se però anche lì si porta dietro ad esempio tutta l'eventuale acqua che è utilizzata per produrre i mangimi che un vitello mangia, quindi in realtà si porta dietro l'acqua che beve, ma anche l'acqua che è servita per la produzione di tutto il mangime che viene utilizzato per far crescere l'animale e via. Vedo che sì? Lei si è occupato anche di best practice, cioè di cosa si può fare. Allora, ci fa un esempio per far capire anche agli ascoltatori di che si tratta? Ma allora, il consumo dell'acqua e il provare a risparmiare acqua all'interno delle nostre aziende che producono pasta è una delle attività che abbiamo iniziato ormai da più di 10 anni. E questo ha portato più o meno a una riduzione, in particolare in Italia, di più del 30% dell'acqua utilizzata. Ma per risparmiare in alcuni casi può essere utilizzando degli impianti che consumano meno acqua e quindi è abbastanza semplice. Oppure come si fa anche in casa, nel momento in cui non si lasciano i rubinetti aperti o si cerca di utilizzare l'acqua per pulire soltanto nella quantità minima indispensabile. Quindi 30 anni fa molto spesso si raffreddavano gli impianti con acqua a perdere, cioè si prendeva dai pozzi e poi dopodiché si raffreddava e poi si ributtava direttamente nel fiume o quant'altro. Oggi sono cose che non succedono più. Abbiamo costruito un nuovo stabilimento che produce sughi, l'abbiamo inaugurato l'anno scorso, sono stati scelti tutta una serie di accorgimenti che hanno ridotto più del 40% il consumo di acqua rispetto alle produzioni che facevamo prima in un altro stabilimento. Per questa settimana ci fermiamo qui. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24. Vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it.